Capitolo 20. Attorno al fuoco. Coi primi freddi dell'ottobre cominciarono le gaie fiammate nei grandi camini e le schegge di pino, trasportate da Demi, aiutarono i ceppi di Dan a bruciare splendidamente con un lieto scoppiettio su per la cappa. Allungandosi le sere, tutti erano contenti di radunarsi attorno al fuoco a giocare, leggere o far progetti per l'inverno. Ma il divertimento favorito era quello di raccontare delle storie. Ed era cosa intesa che il signore e la signora Baer dovessero averne sempre alla mano una provvista interessante. A volte però tale provvista si esauriva e i ragazzi erano ridotti alle loro risorse, non sempre con brillante successo. Ci fu un periodo in cui erano tutti infatuati di giocare agli spettri. Il divertimento consisteva nello spegnere i lumi e lasciar morire il fuoco, e poi sedere al buio a raccontare le storie più terrificanti che si potessero inventare. Ma siccome ne risultavano paure di ogni sorta e Tommy camminava dormendo sul tetto del capannone e i piccini vivevano in uno stato di nervosismo continuo, il gioco fu proibito e si tornò a più innocui passatempi. Una sera, quando i piccoli già erano stati messi a letto e i ragazzi più grandi oziavano attorno al fuoco della stanza da studio, incerti su quello che dovessero fare, Demi suggerì un nuovo modo di risolvere la questione. Afferrando il granatino, si mise a camminare su e giù per la stanza e ordinò: «Svelti, svelti, in fila, in fila!» E quando i ragazzi, ridendo e urtandosi, si furono allineati, egli disse: «Ora vi do 2 minuti per trovare un gioco». Tutti, tranne Franz, occupato a scrivere, ed Amy, che stava leggendo La vita di Lord Nelson, si misero a stillarsi il cervello e, trascorso il tempo assegnato, erano pronti a rispondere. «Su, Tom!» E gli sfiorò leggermente la testa con le molle. «Mosca cieca!» Jack, una partita a commercio con la posta di centesimi. Lo zio ha proibito di giocare di denaro. Dan, e tu? Una battaglia fra greci e romani. Staffi, cuocere le mele, abbrustolire il Gran Turco e schiacciare le noci. Bene, bene, approvarono molti e la proposta di Staffi, messa ai voti, fu accettata. Chi andò in dispensa in cerca di mele, chi in solaio per le noci e chi corse a prendere il Gran Turco e l'arnese per abbrustolirlo. «Non sarebbe meglio chiamare anche le ragazze?» disse Demi in un improvviso slancio di cavalleria. «Daisy è famosa per dare i tagli nelle castagne», interloquì Ned, desideroso che la sua piccola amica venisse a divertirsi con loro. «Nan abbrustolisce il Gran Turco alla perfezione, bisogna invitarla», aggiunse Tommy. «E allora fate venire le vostre belle, a noi poco importa», disse Jack, che rideva delle innocenti scambievoli premure dei piccoli. «Tu non devi chiamare mia sorella la bella di nessuno. È una stupidaggine!» gridò Demi con un tono che fece scoppiare Jack in una risata. «Ma è la tenera amica di Nat, non è vero, caro il mio canterino?» «Sì, se Demi non ha niente in contrario. Non posso fare a meno di volerle bene, così buona con me», rispose Nat con timida gravità, perché i modi rozzi di Jack gli spiacevano. «Nan è la mia innamorata e la sposerò fra un anno circa. Quindi non ci state a seccare, nessuno di voi», disse Tommy con tono fermo, perché lui e Nan avevano già deciso il loro avvenire fanciullescamente e stabilito di vivere sul Salice, calando un panierino per le provviste e facendo molte altre cose deliziose e impossibili. Demi fu ridotto al silenzio dal tono deciso di Tommy Banks, che lo prese per il braccio e uscì con lui in cerca delle damigelle. Nan e Daisy erano intente con la zia Jo a cucire certi piccoli indumenti per il neonato della signora Carney. «Scusi, signora, potrebbe prestarci le ragazzine per un po' di tempo? Ne avremo la massima cura», disse Tommy, strizzando un occhio per indicare le mele, facendo schioccare le dita per significare il grano abbrustolito e digrignando i denti per dar l'idea delle noci schiacciate. Le bimbe capirono a volo quella pantomima e cominciarono a riporre i ditali, prima che la signora Jo avesse deciso se Tommy stesse per avere le convulsioni o non macchinasse piuttosto qualche birichinata più grossa del solito. Demi spiegò la cosa elaboratamente e il permesso fu subito accordato. I ragazzi si allontanarono con la loro preda. «Non parlare a Jack», mormorò Tommy a Nan, mentre andavano in cerca di una forchetta per bucare le mele. «Perché? Mi canzona e io non voglio che tu abbia nulla a che fare con lui». «Farò come mi pare e piace», rispose Nan, ribellandosi subito a quella prematura pretesa di autorità da parte del suo signore. E allora non ti voglio più per innamorata. Non me ne importa nulla. Via, Nan, credevo che tu mi volessi bene. E la voce di Tommy era piena di tenero rimprovero. Se tu vadi alle canzonature di Jack, non mi curo più di te. Allora riprenditi il tuo vecchio anello, non lo voglio più portare. E Tommy si tolse dal dito un pegno d'affetto fatto con crini di cavallo, datogli da Nan in cambio di un altro fatto con le branchie di un gambero. Lo regalerò a Ned, fu la sua crudele risposta, perché a Ned piaceva assai la signorina Sventatelli e le aveva fatto mollette per la biancheria, scatole, rocchetti in quantità sufficienti a mettere su casa. Tuoni e fulmini! Esclamò Tommy come unico sfogo all'angoscia del momento e lasciando il braccio di Nan si ritirò fieramente sdegnato, abbandonandola con la forchetta in mano. Sgarbo, di cui Nan si vendicò nel modo più maligno, accingendosi a punzecchiare con la gelosia il suo cuore, quasi fosse un nuovo genere di mela. Il camino fu spazzato e le belle mele rose messe ad arrostire, poi si arroventò una paletta sulla quale danzarono le castagne, mentre il Gran Turco scoppiettava selvaggiamente nella sua prigione di fili di ferro. Dan schiacciava le sue più belle noci e tutti chiacchieravano e ridevano, mentre la pioggia batteva sui vetri e il vento ululava attorno alla casa. Perché Billy è come questa noce? Chiese Emil, che ogni tanto aveva qualche infelice ispirazione in fatto di indovinelli. Perché è come un guscio vuoto? Rispose Ned. Questo non va bene. Non dovete canzonare Billy perché non può rispondervi per le rime. È una vigliaccheria, gridò Dan, schiacciando una noce con furore. A quale famiglia di insetti appartiene Blake? Chiese Franz per pacificare gli animi, vedendo l'aria mortificata di Emil e il viso minaccioso di Dan. Alle zanzare, rispose Jack. Perché Daisy somiglia a un'ape? Chiese Nat, dopo qualche minuto di profonda meditazione. Perché è la regina dell'alveare, rispose Dan. No, perché è dolce. Le api non sono dolci. Ci rinunzio. Perché fa delle cose dolci. È sempre occupata e ama i fiori, disse Nat, sciorinando i suoi infantili complimenti che ridussero Daisy tutta rossa come un fiore di trifoglio. Perché Nan è come un calabrone? Chiese Tommy guardandola con occhi sfavillanti e aggiungendo senza dare a nessuno il tempo di rispondere. Perché non è dolce, fa un gran ronzare per niente e punge come una furia. Tommy è furibondo e io ne sono ben contento, gridò Ned, mentre Nan scuoteva la testa ribattendo prontamente. A che oggetto da tavola somiglia Tom? Alla pepaiola, rispose Ned, offrendo a Nan il griglio di una noce con una risata provocante che fece venir voglia a Tommy di saltar su come una castagna dal fuoco e di far del male a qualcuno. Vedendo che il cattivo umore stava per soffocare la piccola riserva di spirito della compagnia, Franz si slanciò di nuovo sulla breccia. Facciamo una legge per cui la prima persona che entra in questa stanza debba raccontarci una storia, chiunque sia, e sarà uno spasso vedere chi arriva per primo. Tutti approvarono. E non dovettero aspettare a lungo, perché presto un passo pesante attraversò il vestibolo e apparve Silas con una bracciata di legna. Fu salutato da un'acclamazione generale che lo fermò di botto. Si guardò attorno, stupito, sorridendo, con tutto il suo faccione rosso, finché Franz non gli ebbe spiegato lo scherzo. «Ma che, io non sono capace», disse, posando il suo carico e preparandosi a lasciare la stanza. Ma gli furono tutti addosso, lo costrinsero a sedersi e lo tennero fermo sulla sedia, ridendo e reclamando la loro storia, tanto che il buon gigante si diede per vinto. Io ne so una sola, di un cavallo, disse, molto lusingato dell'accoglienza ricevuta. Raccontala, raccontala, gridarono i ragazzi. Beh, cominciò Silas, spingendo lo schienale della sedia contro la parete e cacciandosi i pollici nel panciotto sotto le ascelle. Durante la guerra io facevo parte di un reggimento di cavalleria e ne ho viste di battaglie. Il mio cavallo, Major, era un animale numero uno e io gli volevo bene come se fosse stato un cristiano. Mica che fosse bello, ma era la bestia più docile, resistente e affezionata che abbia mai vista. Nella prima battaglia a cui si prese parte, mi dette una lezione che non dimenticai tanto presto e ve la voglio raccontare. Ora non serve che cerchi di rappresentare lo strepito, la furia e l'orrore di una battaglia a voi altri ragazzini perché non saprei trovare le parole, ma confesso che a tutta prima rimasi così confuso e sottosopra che non capivo più nulla. Ci fu comandato di caricare e noi via di volo, senza fermarci a raccattare quelli caduti nel parapiglia. Io mi buscai una pallottola nel braccio e non so come fui sbalzato di sella, per cui rimasi indietro con due o tre altri morti e feriti, mentre il grosso continuava a galoppare. Beh, mi tirai su e guardai in giro in cerca di Major, perché mi pareva di averne avuto abbastanza. Non lo vidi da nessuna parte, stavo per tornarmene indietro al campo quando sentii un nitrito che non mi giungeva nuovo. Mi voltai ed ecco che c'era Major che mi aspettava un bel pezzo più in là, con l'aria di non capire perché mi stessi baloccando lì indietro. Io fischiai e lui trottò verso di me come lo avevo avvezzato a fare. Montai in sella, alla meglio, col braccio sinistro che sanguinava. E volli dirigermi verso il campo perché confesso che mi sentivo male e fiacco. È una cosa che capita qualche volta alla prima battaglia, ma no, signori. Major fu il più coraggioso di noi due e non volle retrocedere neanche di un passo. Scalciava, saltava, sbruffava come se l'odore della polvere e il fracasso lo avessero fatto impazzire. Io facevo del mio meglio, ma lui non cedeva e dovetti cedere io, eh? E che credete che facesse allora quella bestia coraggiosa? Girò su se stesso e via di galoppo come un uragano proprio nel più folto della mischia. Bravo! Gridò Dan tutto eccitato, mentre gli altri ragazzi prendevano un tale interesse al racconto da dimenticare mele e noci. Mi pigli un accidente se non mi vergognavo di me stesso, continuò Silas, riscaldandosi al ricordo di quel giorno. Ero pazzo come un calabrone, dimenticai la mia ferita e mi ci buttai dentro menando colpi come una furia, finché una bomba, scoppiando in mezzo a noi, ne scaraventò a terra un bel mucchio. Per un pezzo non sentii più nulla e quando tornai in me la battaglia era finita e io mi trovavo lungo e disteso accanto a un muro, col povero Major ferito molto peggio di me. Io avevo una gamba spezzata e una pallottola nella spalla, ma lui, poveraccio, aveva un fianco sfracellato da una scheggia di quella maledetta bomba. Oh, Silas, e che hai fatto? Gridò Nan avvicinandosi a lui col viso animato dal più vivo interesse e dalla più calda simpatia. Mi strascicai accanto a lui cercando di fermare il sangue coi brandelli di stoffa che riuscivo a strappare con la mano sana, ma non serviva a nulla, e quello stava disteso e si lamentava per l'atroce dolore e mi guardava con quei suoi occhi così pieni di affetto che io avevo paura di non poterci più reggere. Gli detti tutto l'aiuto possibile e quando il sole divenne più caldo e lui cominciò a cacciar fuori la lingua, tentai di spingermi fino a un ruscello assai distante, ma non ce la feci perché ero tutto pesto e debole. Allora ci rinunziai e mi misi a fargli vento col cappello. E ora, ascoltate bene, e quando sentirete dare addosso ai ribelli, quelli degli stati del Sud che durante la guerra di secessione si erano dati un governo proprio, ricordatevi, quello che fece uno di loro e rendetegli giustizia. Un povero diavolo in divisa, grigia, era a terra non molto discosto e stava morendo coi polmoni trapassati da una palla. Gli offersi il mio fazzoletto per ripararsi la faccia dal sole e lui mi ringraziò cortesemente perché in quel momento gli uomini non stanno a pensare a che partito appartengono, ma si aiutano a vicenda. Quando vide che mi disperavo per Major, affannandomi per dare qualche sollievo alle sue sofferenze, volse verso di me la faccia pallida e sudata per lo spasimo e mi disse: «C'è dell'acqua nella mia borraccia, prendila, a me non serve più». Non avrei accettato se non avessi avuto in una fiaschetta un po' di cognac da offrirgli. Parve sollevato e io mi sentii riavere come se l'avessi bevuto io. È straordinario il bene che fanno alle volte certe piccole cose. E Silas tacque, quasi riassaporando il conforto di quel momento in cui lui e il suo nemico si erano aiutati a vicenda come fratelli. «Racconta di Major!» gridarono i ragazzi, impazienti di giungere alla catastrofe. Versai l'acqua sulla sua povera lingua tremante, e se mai una creatura muta dimostrò della gratitudine, fu lui allora. Ma servì a poco, perché l'orribile ferita continuava a tormentarlo. Alla fine non ci ressi più. Fu una cosa dura, ma lo feci per pietà, e so che lui mi ha perdonato. «Che facesti?» chiese Emil quando Silas si interruppe bruscamente con un forte e e un'espressione sulla sua rude faccia che spinse Daisy ad andargli accanto e a posargli la manina sul ginocchio. Gli sparai addosso. Un fremito passò fra gli ascoltatori a quelle parole, perché Major era un eroe ai loro occhi e la sua tragica fine suscitava tutta la loro simpatia. Già, l'uccisi perché finisse di soffrire. Prima lo accarezzai dicendogli addio, poi gli feci adagiare comodamente la testa sull'erba, detti un ultimo sguardo ai suoi occhi affettuosi e gli cacciai una pallottola nella testa. Si mosse appena perché avevo mirato bene. E quando lo vidi immobile, che non soffriva e non si lamentava più, fui contento. Eppure, bah, perché dovrei vergognarmene? Gli misi le braccia attorno al collo piangendo come un bimbo. Proprio non sapevo di essere così stupido, e Silas si passò la manica sugli occhi, commosso dal singhiozzo di Daisy quanto dal ricordo del fedele Major. Per qualche istante nessuno parlò. I ragazzi avevano sentita tutta la bellezza commovente del semplice racconto, non meno della tenera Daisy, sebbene non lo dimostrassero con le lacrime. «Mi piacerebbe avere un cavallo così», disse Dan a mezza voce. «E il ribelle? Morì anche lui?» chiese Nan ansiosamente. «Non subito. Restammo tutto il giorno lì per terra, e a sera alcuni dei nostri vennero a cercare dispersi. Naturalmente volevano prendere prima me, ma io sapevo che potevo aspettare, mentre l'altro era in condizioni più gravi, quindi lo feci portar via subito». Ebbe appena tanta forza da tendermi la mano dicendo «Grazie, camerata», e furono le sue ultime parole perché morì un'ora dopo che l'ebbero ricoverato nell'ambulanza. «Come deve averti fatto piacere essere stato così buono con lui», disse Demi molto commosso. «Certo, era un conforto pensarci nelle ore che rimasi là, solo, con la testa appoggiata al collo di Major guardando la luna che veniva su. Avrei voluto seppellire decentemente quella povera bestia, ma non fu possibile. Così tagliai un ciuffo della sua criniera e l'ho sempre conservato. Lo volete vedere?» «Oh, sì, sì!» rispose Daisy asciugandosi gli occhi per guardare. Silas si levò di tasca un vecchio portafogli ed estrasse da uno scompartimento interno un pezzetto di carta scura contenente un ruvido ciuffo di crini bianchi. I ragazzi li osservarono in silenzio, sulla larga palma, e nessuno trovò nulla di ridicolo nell'affetto di Silas per il suo buon cavallo. «Che bella storia! Mi piace molto, sebbene mi abbia fatta piangere. Grazie mille, Silas!» E Daisy lo aiutò a ripiegare e a riporre la sua piccola reliquia, mentre Nan gli cacciava in tasca una manciata di chicchi di Gran Turco e i ragazzi esprimevano rumorosamente la loro lusinghiera opinione sul racconto, persuasi che gli eroi fossero stati due. Partito lui, molto soddisfatto del successo ottenuto, i piccoli cospiratori continuarono a commentare il racconto mentre aspettavano la seconda vittima, e fu la signora Jo venuta a misurare a Nan dei grembiuloni che le stava cucendo. La lasciarono entrare e poi le saltarono addosso informandola della legge in vigore e chiedendo una storia. La signora Jo si divertì molto di quel nuovo tranello e acconsentì subito, perché le voci allegre giunte fino a lei le avevano fatto desiderare di unirsi a loro, dimenticando la sua preoccupazione per la sorella Meg. «Sono io il primo topo che avete preso in trappola, furbissimi gatti stivalati?» chiese, mentre essi la conducevano a un seggiolone, la rifornivano di viveri e la circondavano coi volti ridenti in attesa. Le dissero di Silas e del suo contributo, ed ella si batté la fronte disperata perché si trovava a corto di fantasia. «Di che cosa vi devo parlare?» chiese. «Di ragazzi e di ragazze», fu la risposta generale. «E che c'entri un bel ricevimento», disse Daisy. «Con qualcosa di buono da mangiare», aggiunse Staffy. «Oh, questo mi fa venire in mente una storia scritta anni fa da una cara vecchia signora. A me piaceva un mondo e credo che piacerà anche a voi, perché c'entrano i ragazzi e c'è anche qualche cosa di buono da mangiare». «Come si intitola?» chiese Demi. «Il ragazzo sospettato». Nat alzò gli occhi dalle sue noci e mamma Jo gli sorrise intuendo che cosa pensava. La signorina Crane aveva una scuola per ragazzi in una tranquilla cittadina. Era un'ottima scuola all'antica, frequentata da 6 ragazzi che vivevano nella casa e da altri 4 o 5 che venivano di fuori. Tra quegli interni ce n'era uno chiamato Lewis White. Non era un cattivo figliolo, ma assai timido e ogni tanto diceva qualche bugia. Un giorno una vicina mandò alla signorina Crane un cestino di ribes e siccome non ce n'era per tutti, la buona signorina, che voleva contentare i suoi allievi, si mise all'opera e fece una dozzina di piccole torte di ribes. Mi piacerebbe provare. Chissà se le faceva come faccio io quelle di lamponi, chiese Daisy, il cui interesse per la cucina si era ultimamente risvegliato. Shh! Fece Nat, cacciandole in bocca un grosso chicco di granturco per farla tacere, perché egli prendeva un interesse speciale a quel racconto che gli pareva cominciasse molto bene. Quando le torte furono fatte, continuò, la signorina Crane le ripose nell'armadio del salotto senza dir nulla, perché voleva fare una sorpresa ai suoi ragazzi all'ora del tè. E giunto il momento, appena furono seduti a tavola, andò a prenderle, ma tornò molto turbata perché sapete che cos'era successo? Qualcuno le aveva sgraffignate, gridò Ned. No, c'erano ancora, ma qualcuno aveva rubato tutta la frutta, sollevando la crosta e poi rimettendola a posto dopo aver sgraffignato il ribes. Che scherzo volgare! E Nan guardò Tommy come ad insinuare che egli sarebbe stato capace di fare altrettanto. Quando rivelò ai ragazzi l'intenzione avuta, mostrando in pari tempo le povere tortine derubate del meglio, essi ci rimasero molto male e dichiararono tutti che non ne sapevano nulla. Saranno stati i topi, disse Lewis, che era fra i più scalmanati a negare di aver avuta parte alcuna nella faccenda. No, i topi avrebbero mangiato anche la crosta e non l'avrebbero sollevata per spazzare via il ribes. Sono state delle mani a farlo, disse la signorina Crane, più dispiacente per la bugia che qualcuno doveva aver detta che non per i suoi dolci rovinati. Basta, cenarono e poi andarono a letto. Ma durante la notte la signorina sentì qualcuno che si lamentava e, levatasi per vedere chi fosse, trovò Lewis che evidentemente aveva mangiato qualcosa di indigesto e si sentiva molto male. Spaventata, ella voleva mandare per il dottore, ma il ragazzo mormorò: «È il ribes! Sono stato io! Devo dirlo prima di morire!» Perché l'idea del dottore lo atterriva. «Se è solo questo, ti darò un emetico e ti passerà subito», disse la signorina. Gliene dette infatti una buona dose e la mattina dopo il ragazzo era guarito. «Per carità, non lo dica ai miei compagni, mi canzonerebbero troppo!» la scongiurò. La buona signorina glielo promise, ma Sally, la domestica, raccontò tutto e il povero Lewis non ebbe più pace per molto tempo. I suoi compagni lo chiamavano vecchio Ribes e non si stancavano di chiedergli il prezzo delle torte. Gli stava bene, disse Emil. Le brutte azioni vengono sempre a galla, aggiunse il moraleggiante Demi. No, non è vero, brontolò Jack, tutto occupato delle mele per poter voltare la schiena agli altri e giustificare la sua faccia rossa. È tutto qui? Chiese Dan. No, questa non è che la prima parte. La seconda è più interessante. Dovete dunque sapere che qualche tempo dopo capitò un merciaiolo che si mise a mostrare la sua merce ai ragazzi. Comprarono pettinini tascabili, scacciapensieri e altre bazzecole. C'era anche un temperino col manico bianco che a lui spiaceva molto, ma aveva speso tutto il suo denaro e nessuno gliene poteva prestare. Lo tenne in mano un pezzo, ammirandolo, struggendosi di averlo, finché l'uomo raccolse la sua merce per andarsene, e solo allora, molto malincuore, se ne staccò. Il giorno dopo, il merciaiolo tornò a dire che non trovava più quel temperino e che credeva di averlo lasciato dalla signorina Crane. Era un bel temperino col manico di madreperla e non poteva permettersi di perderlo. Tutti i ragazzi dichiararono di non saperne nulla. L'ultimo che lo ha tenuto in mano è stato questo signorino e sembrava che gli piacesse molto. È sicuro di averlo rimesso a posto? Disse l'uomo a Lewis che, molto turbato, giurava e spergiurava di averlo restituito. Ma i suoi dinieghi non servivano a nulla perché tutti erano persuasi che lo avesse preso lui. E dopo una scena violenta, la signorina Crane ne pagò il prezzo e l'uomo se ne andò brontolando. L'aveva preso Lewis? Chiese Nat, molto eccitato. Sentirai. Il povero Lewis dovette subire un'altra prova, perché i ragazzi non facevano che dirgli prestami il tuo temperino, Ribes, e cose simili. Alla fine si sentì così infelice che chiese di essere rimandato a casa. La La signorina faceva del suo meglio per tenere tranquilli i ragazzi, ma era una fatica improba, perché essi continuavano a tartassarlo e lei non poteva sempre essere presente. È una delle cose più difficili questa coi ragazzi. Non vogliono battere un compagno che è a terra, come dicono, ma lo tormentano in mille modi fino a fargli desiderare di buscarne tante da restare senza fiato. Lo so, disse Dan. Anch'io, fece Nat a bassa voce. Jack non fiatò. Ma era dello stesso avviso perché sapeva che i ragazzi più grandi lo lasciavano in pace solo perché lo disprezzavano. Continua a raccontare del povero Lewis, zia Jo. Non credo che sia stato lui, ma voglio esserne sicura, disse Daisy molto ansiosa. Ebbene, le settimane passarono senza che la cosa si chiarisse. I compagni evitavano Lewis e lui, povero figliolo, quasi si ammalò per il gran dispiacere. Fece il proposito di non dire mai più una bugia e ci si mise con tale impegno che la signorina Crane si impietosì, lo sorresse e finì per persuadersi che non fosse stato lui a prenderlo. 2 mesi dopo il merciaiolo tornò e la prima cosa che disse fu: «Ebbene, signora, ho poi ritrovato quel temperino. Era sdrucciolato dentro la fodera della mia valigia ed è scappato fuori l'altro giorno mentre riponevo una nuova partita di merce. Sono venuta a dirglielo perché l'ha pagato e forse le piacerebbe averlo. Eccolo.» I ragazzi che gli si erano affollati attorno si vergognarono molto a queste parole e chiesero perdono a Lewis così sinceramente che lui non poté negarlo. La signorina Crane gli regalò il temperino ed egli lo conservò molti anni per ricordarsi del difetto che gli era costato così caro. Chissà perché le cose che si mangiano di nascosto fanno male, mentre se si mangiano a tavola no. Osservò Staffi con aria cogitabonda. Forse la coscienza agisce sullo stomaco, spiegò la signora Joe sorridendo di quell'osservazione. Lui pensa ai cetrioli, disse Ned, e uno scoppio di risa seguì quelle parole, perché l'ultima traversia di Staffi era stata assai comica. Avendo mangiato di nascosto 2 grossi cetrioli, si era sentito molto male e aveva confidato le sue pene a Ned, scongiurandolo di aiutarlo. Il buon Ned gli aveva suggerito un senapismo e un ferro da stirare caldo ai piedi, ma nell'applicare questi rimedi aveva invertito l'ordine delle cose, mettendo l'impiastro sui piedi e il ferro sullo stomaco, e il povero Staffy era stato rinvenuto nel capannone con le vesciche ai piedi e la giacchetta bruciacchiata. Perché non ci racconta un'altra storia? Questa era così interessante, disse Nat quando le risate cessarono. Ma prima che la signora Joe potesse dir di no a quegli insaziabili Oliver Twist, Rob entrò nella stanza tirandosi dietro la copertina del letto e con espressione di grande dolcezza disse, facendo rotta verso la sua mamma, come verso un porto sicuro: «Ho sentito un gran rumore e pensando che fosse successo qualcosa di terribile sono venuto a vedere. E puoi supporre che ti dimenticherai, piccolo scellerato?» disse la mamma cercando di far la faccia scura. No, ma pensavo che saresti stata meglio se mi vedevi qui, rispose l'insinuante ometto. Sarei molto più contenta di vederti a letto, quindi torna subito su, Robin. Chiunque entra in questa stanza deve raccontare una storia, e siccome non puoi farlo, è meglio che tu te la svigni, disse Emily. Sì che posso. Ne racconto un mucchio a Teddy, tutte di orsi e di lune e di piccole mosche che parlano quando ronzano, protestò Rob, deciso a rimanere ad ogni costo. E allora raccontane una, presto, disse Dan, preparandosi a prenderlo in collo e a riportarlo a letto. Sì, ma lasciatemi pensare un minuto. E Rob si arrampicò sulle ginocchia della mamma che lo strinse a sé, osservando: È una debolezza di famiglia, questa di sgusciare fuori dal letto nel momento più inopportuno. Demi lo faceva sempre. Quanto a me, saltavo dentro e fuori tutta la notte. Meg si figurava che la casa bruciasse e mi mandava a vedere. E io restavo a divertirmi come vuoi fare tu, bricconcello, eh? Ho trovato, annunziò Rob, perfettamente a suo agio e smanioso di guadagnarsi l'accesso a quel circolo delizioso. Tutti lo fissavano, molto divertiti, ma cercando di mantenersi seri, mentre inerpicato su un ginocchio della mamma, era avvolto nella coperta vivaci colori, faceva il suo breve ma tragico racconto con una gravità che lo rendeva indicibilmente comico. C'era una volta una signora che aveva 1 milione di figlioli e un grazioso bambino. Lei salì di sopra e disse: Tu non devi andare in cortile. Ma lui ci andiede e cascò nella pompa e affogò morto. È tutto qui? Chiese Franz quando Rob si fermò senza fiato dopo quest'inizio emozionante. No, ce n'è ancora un pezzo. Rob corrugò la fronte nello sforzo di tirare fuori un'altra ispirazione. Che cosa fece la signora quando fu cascato nella pompa? Chiese la mamma per aiutarlo. Oh, lo pompò fuori, lo avvolse in un giornale e lo mise sopra un palchetto a seccare per i semi. Una generale esplosione di risa salutò questa sorprendente conclusione e la signora Jo carezzò la testolina ricciuta dicendo in tono solenne: Figlio mio, tu hai ereditato da tua madre il dono di narrare le storie. Va dove la gloria ti attende. Ora posso restare qui, vero? Non era bella la mia storia? Gridò Rob tutto esultante per il suo superbo successo. Resta pure finché tu non abbia finito di mangiare questi 12 chicchi di Gran Turco, disse la mamma, aspettandosi di vederli sparire tutti in un boccone. Ma Rob era un ometto intelligente e li mangiò a uno molto adagio, godendosi ogni minuto con tutte le forze. Non faresti meglio a raccontare un'altra storia mentre lo aspetti? Disse Demi che non voleva perder tempo. Veramente non ho più che il raccontino di una cassetta da legna, disse la signora Jo, vedendo che Rob aveva ancora 7 chicchi da mangiare. C'entra un ragazzo in questa storia? È tutta di un ragazzo. È vera? Chiese Demi. Vera, dalla prima all'ultima parola. Che bellezza! Sii buona, raccontala. James Snow e la sua mamma vivevano in una piccola casa su nel New Hampshire. Erano poveri. E James avrebbe dovuto lavorare per aiutare sua madre, ma detestava il lavoro quanto amava i libri e desiderava solo di stare tutto il giorno seduto a leggere. Che idea! Io invece detesto i libri e mi piace lavorare, disse Dan, trovando da ridire su James fin dal principio. Nel mondo ci vuole ogni sorta di gente, tanto gli operai che gli studenti sono necessari, e c'è posto per tutti. Ma io credo che gli operai non farebbero male a studiare un po' e gli studenti a saper lavorare all'occorrenza, rispose mamma Jo, guardando prima Dan e poi Demi con espressione significativa. Ma io lavoro! E Demi mostrò con orgoglio 3 piccoli calli nella sua palma. E io studio, aggiunse Dan, indicando con un sospiro la lavagna piena di numeri. Sentite che cosa fece James. Non intendeva affatto di essere egoista, ma sua madre, che era molto orgogliosa di lui, lo lasciava fare come voleva, lavorando lei sola perché potesse avere libri e tempo per leggerli. Un autunno, James, che desiderava andare a scuola, si recò dal ministro per chiedergli di aiutarlo perché mancava di vestiti decenti e di libri. Ora, il ministro aveva sentito parlare della pigrizia di James e non era disposto a fare molto per lui, pensando che un ragazzo capace di trascurare la madre e di lasciarla lavorare come una schiava non doveva valere molto neppure a scuola. Ma l'ottimo uomo cominciò a interessarsi quando capì che James parlava sul serio ed essendo un tipo assai originale gli fece una proposta per mettere alla prova la sua sincerità. Ti darò vestiti e libri, ma a una condizione, James. Quale, signore? Chiese il ragazzo illuminandosi in volto. Dovrai mantenere piena per tutto l'inverno la cassetta della legna di tua madre, ma dovrai farlo proprio tu, se no, niente scuola. James rise di quella curiosa condizione e l'accettò prontamente, trovandola molto facile. Cominciò dunque a frequentare la scuola e per qualche tempo provvide egregiamente alla legna, poiché era autunno e c'era abbondanza di schegge e di rami secchi. Correva via mattina e sera e ne riportava un cesto pieno o spaccava i rami per il piccolo fornello di cucina e siccome la mamma era accurata ed economica, il compito non gli riusciva gravoso. Ma in novembre venne il gelo, le giornate erano grigie e fredde e la legna spariva in fretta. La mamma ne comperò un carico coi suoi guadagni, ma pareva che si fondesse ed era quasi finito prima che James si ricordasse che toccava a lui procurarne un altro. La signora Snow era debole, zoppicava a causa dei reumatismi e non poteva più lavorare come prima, quindi James dovette mettere a riposo i libri e vedere che cosa avrebbe potuto fare. Era duro, perché andava avanti molto bene e si interessava tanto alle sue lezioni da interromperle solo per mangiare e dormire. Ma sapeva che il ministro avrebbe tenuto la sua parola e, molto controvoglia, cercò di guadagnare del denaro nelle ore libere perché la cassetta della legna non restasse vuota. Fece ogni sorta di cose. Andò in giro a sbrigar commissioni, badò alla vacca di un vicino, aiutò il vecchio sacrestano a spolverare e a scaldare la chiesa la domenica e così ebbe abbastanza da comperare piccole quantità di combustibile. Ma era un lavoro duro. Le giornate erano corte, l'inverno freddissimo, il tempo prezioso volava via ed era una pena lasciare i cari libri così affascinanti per lavori noiosi di cui non si vedeva mai la fine. Il ministro lo teneva d'occhio, senza parere, e vedendo la sua serietà lo aiutava a sua insaputa. Lo incontrava spesso mentre spingeva il traino di legna dalla foresta dove i boscaioli spaccavano i tronchi. Seguendo il lento passo dei buoi, il fanciullo leggeva o studiava, ansioso di usufruire di ogni minuto. Questo ragazzo merita di essere aiutato. La lezione gli farà bene, e quando l'avrà imparata gliene assegnerò una più facile, pensò il ministro, e la vigilia di Natale un magnifico carico di legna fu deposto senza rumore alla porta della piccola casa, con una sega nuova e un pezzetto di carta su cui era scritto soltanto: il povero James non si aspettava nessun dono, ma svegliandosi in quella fredda mattina di Natale, trovò un paio di guanti di lana lavorati dalla mamma con le sue povere dita rigide e indolenzite. Quel dono gli fece molto piacere, ma il bacio e lo sguardo affettuoso di lei, mentre lo chiamava il suo buon figliolo, furono anche migliori. Adoperandosi con tanto sacrificio per tenerla al caldo, egli aveva scaldato anche il proprio cuore e, riempiendo la cassetta della legna, aveva anche riempito quei mesi di doveri scrupolosamente assolti. Cominciò a sentirlo, a comprendere che c'era qualcosa di meglio dei libri e a cercare di apprendere le lezioni che Dio gli assegnava non meno di quelle assegnategli da suo maestro. Quando vide il gran mucchio di ceppi di querce e di pino alla sua porta e lesse il foglietto, ne capì subito la provenienza, comprendendo l'intenzione del ministro, e grato di essa, si mise al lavoro con tutte le sue forze. Gli altri quel giorno si divertivano, ma James segò la legna e io credo che di tutti i ragazzi della città il più felice fosse lui, coi suoi guanti di lana, mentre fischiava come un merlo, riempiendo la cassetta della mamma. Questo è splendido, gridò Dan, che preferiva una semplice storia basata sulla realtà al più bel racconto di fate. Quel ragazzo mi piace, dopo tutto. Io segherei la legna per te, zia Jo, disse Demi, pensando che quella storia potesse suggerirgli un nuovo mezzo di guadagnare denaro per la sua mamma. Raccontacene una con un ragazzo cattivo, mi piace di più, pregò Nan. Meglio, con una cattiva ragazza bisbetica, disse Tommy, cui Nan aveva sciupato la serata con le sue sgarberie che gli facevano sembrare amara la mela, insipido il gran turco, dure da schiacciare le noci, e la vista di Ned e di Nan seduti vicini gli rendeva la vita un peso. Ma le storie della signora Jo erano finite, perché, abbassando gli occhi su Rob, s'era accorta che dormiva profondamente con il suo ultimo chicco di gran turco stretto nella manina paffuta, e avvolgendolo nella coperta lo portò quindi via e lo mise a letto, rincalzandogli le lenzuola, certa che non sarebbe più scappato fuori. Ora vediamo chi verrà, disse Emil, lasciando la porta socchiusa come un invito. Passò prima Marianne ed egli la chiamò, ma Silas l'aveva avvertita e la ragazza non fece che ridere e tirò di lungo nonostante i loro richiami. Poi si sentì il rumore di una porta che si apriva e una forte voce che canticchiava nel vestibolo: Ich weiß nicht was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. È lo zio Fritz. Ridiamo tutti forte, vedrete che entrerà, disse Emil. Seguì uno scroscio di risa e il professore comparve infatti sulla porta della stanza dicendo: Che scherzo state combinando, ragazzi? Presto, presto, di qui non si esce finché non si è raccontata una storia. Gridarono tutti, chiudendo l'uscio. Ah, dunque questo è lo scherzo, eh? Ma io non ho nessuna intenzione di andarmene. Si sta così bene qui e son pronto a pagar subito la mia multa. E così fece, sedendosi e cominciando senza indugio. Molti anni sono, Il tuo nonno Demi andò a fare una conferenza in una grande città sperando di raccogliere denaro per un orfanotrofio che alcune buone persone stavano fondando. La conferenza andò bene ed egli intascò una bella sommetta. Mentre si recava in carrozza in un'altra città, giunse nel tardo pomeriggio a un tratto di strada solitario e stava appunto pensando che bel posto sarebbe stato quello per dei malandrini quando vide un brutto ceffo uscirgli incontro dal bosco e avviarsi lentamente, come aspettandolo. Il pensiero del denaro che portava mise in ansia il nonno, che a tutta prima ebbe l'idea di voltare il cavallo e tornare indietro, ma la bestia era stanca e poi al nonno non piaceva sospettare senza ragione. Continuò quindi ad avanzare e quando fu più vicino e vide che colui era povero e malandato e stracciato, sentì una punta di rimorso e fermandosi disse cortesemente: «Amico mio, avete l'aria stanca, volete salire?» L'uomo parve sorpreso, esitò un istante, poi montò accanto a lui. Non sembrava troppo disposto a parlare, ma il nonno, con la sua maniera garbata e allegra, attaccò discorso, dicendo che quello era stato un anno assai duro, che i poveri avevano molto sofferto e che a volte era ben difficile tirare avanti. L'uomo parve ammansirsi un poco e, vinto da quel tono affabile, narrò la sua storia, che era stato malato, che non trovava lavoro e aveva dei bambini ed era ridotto alla disperazione. Il nonno, impietosito, dimenticò le sue paure e chiese all'uomo il suo nome, dicendogli che avrebbe tentato di trovargli lavoro nella città vicina, dove aveva amici. Volendo cercare un pezzo di carta e la matita per scrivere l'indirizzo, tirò fuori il suo portafoglio rigonfio e subito gli occhi dell'uomo vi si posarono. Allora il nonno, ricordandosi che cosa conteneva, tremò per il suo denaro, ma disse tranquillamente: «Già, ho qui una piccola somma destinata a certi orfanelli poveri. Se fosse mia, sarei ben contento di farvene parte. Io non sono ricco e conosco molte delle dure prove dei poveri. Questi 5 dollari però sono miei e voglio darveli per i vostri bambini». Lo sguardo duro e avido negli occhi dell'uomo cambiò espressione mentre prendeva la piccola somma data così spontaneamente. E il denaro degli orfani rimase intatto. Proseguì col nonno fino alle vicinanze della città, poi gli chiese di lasciarlo scendere. Il nonno gli strinse la mano e fece per riavviarsi, ma l'uomo, come spinto da un impulso interiore, lo trattenne dicendogli: «Quando ci siamo incontrati ero disperato e volevo derubarvi, ma siete stato così buono con me che mi è mancato il coraggio. Siate benedetto, signore, per avermelo impedito». «Oh, l'ha più rivisto il nonno?» chiese Daisy ansiosa. «No, ma credo che l'uomo abbia trovato lavoro e non abbia tentato più di rubare. È stato un modo assai strano di trattarlo. Io lo avrei buttato giù con un pugno», disse Dan. «La bontà val sempre meglio della forza. Prova e vedrai», rispose il signor Byer alzandosi. «Raccontane un'altra, per piacere», pregò Daisy. «Devi raccontarla come ha fatto la zia Jo», aggiunse Demi. «Allora non lo farò e serverò le mie altre storie per la prossima volta. Troppi racconti sono indigesti come troppi dolci. Ho pagata la mia multa e me ne vado». E il signor Byer si diede alla fuga inseguito da tutti i ragazzi, ma egli aveva un bel po' di vantaggio e si rifugiò al sicuro nel suo studio lasciandoli a far baccano mentre tornavano indietro. Quella corsa li aveva tanto eccitati che non poterono ritrovare la calma primitiva. Fecero quindi una movimentata partita a mosca cieca, durante la quale Tommy mostrò di aver capito la morale dell'ultima storia, perché quando afferrò Nan le sussurrò all'orecchio: «Mi dispiace di averti chiamata bisbetica». Nan non volle essere da meno in cortesia, e quando fecero il gioco dell'anello e toccava a lei andare in giro, gli disse: «Tieni stretto quello che ti do». Con un sorriso così affettuoso che egli non fu affatto sorpreso di trovarsi in mano, invece dell'anello del gioco, quello di crine di cavallo. Allora si limitò a sorriderle, ma al momento di andare a letto le offerse il miglior boccone della sua ultima mela. E lei, che gli vide l'anello nel tozzo mignolo, accettò di dargli un morso e la pace fu fatta. Erano tutti e due pentiti di quella momentanea freddezza e non si vergognarono di dire: «Ho avuto torto, perdonami». Così la loro infantile amicizia rimase salda e la casa sul Salice fu ancora per lungo tempo un dolce castello in aria.